Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. Ai piedi del colle del castello raggiunsi due donne e passando loro accanto sfiorai il braccio a una di esse. Alzai lo sguardo e incontrai un viso pienotto un po' pallido. Ella arrossì e si fece stranamente bella. Chissà perché, forse per una parola detta da un passante, forse anche soltanto per un lieve pensiero che le era balenato, o forse perché le avevo toccato il braccio. Il suo seno florido ansava e la sua mano strinse l'ombrellino. Che cosa pensava? Mi fermai e la lasciai passare. In quel momento non sarei stato capace di proseguire, tanto mi pareva strana quella faccenda. Ero eccitato, irritato e seccato per via della matita. Avevo anche mangiato troppo a stomaco vuoto. Ed ecco che un ghiribizzo improvviso diede una spinta ai miei pensieri. Mi venne una strana voglia di far paura a quella giovane, di seguirla, di farla in qualche modo indispettire. La raggiunsi ancora, passai oltre, mi voltai di scatto e la guardai negli occhi. E come in un baleno mi si affacciò alla mente un nome che non avevo mai udito, un nome dal suono nervoso e scivolante: Ila Yali. Quando mi fu abbastanza vicina, mi irrigidì e le dissi con voce ferma: «Signorina, state perdendo il libro?» Pronunciando queste parole sentivo il battito del mio cuore. «Il libro?» fece lei verso la sua compagna e passò oltre. Fu uno stimolo per la mia cattiveria. Seguì le due donne ben sapendo di esservi indotto da uno stupido capriccio. Ma non potevo fare diversamente. La mia confusione improvvisa mi aveva preso la mano suggerendomi le idee più pazze e costringendomi a obbedire. Inutilmente andavo ripetendo che il mio contegno era idiota, facevo le smorfie più goffe dietro le spalle di quella ragazza, tossivo come un matto e le passavo vicino. Proseguendo lentamente, sempre con qualche passo di vantaggio, mi sentivo i suoi sguardi nella schiena e mi torcevo istintivamente dalla vergogna al pensiero di averla tormentata così, finché una strana sensazione mi filtrò a poco nel sangue. Mi pareva di essere lontano, in tutt'altro luogo e quasi avvolto in una nebbia. Mi pareva di non essere io quello che procedeva lì sul selciato a spalle curve. Dopo qualche minuto la signorina raggiunse la libreria Pasca. Io ero già fermo davanti alla prima vetrina. Mentre ella mi passava davanti, le tagliai la strada ripetendo: «Signorina, state perdendo il libro!» «Ma che libro mai?» esclamò impaurita. «Capisci tu di che libro parla?» E si fermò. Io mi godevo crudelmente il suo imbarazzo. La perplessità nei suoi occhi mi deliziava. Il suo cervello non riusciva ad afferrare la mia breve frase disperata. Ella non aveva nessun libro, neanche una pagina, e cercava nelle tasche, si guardava e riguardava le mani, si voltava a guardare la strada dietro di sé, sforzava al massimo il suo cervellino sensibile per comprendere di che libro andassi discorrendo. Impallidì, mutò più volte espressione, mentre io sentivo il suo respiro. Persino i bottoni del suo vestito pareva mi guardassero come una fila di occhi atterriti. «Non dargli retta», disse la sua compagna tirandola per il braccio. «È ubriaco, non vedi che è ubriaco?» Per quanto fossi assente in quei momenti, in preda a influssi imponderabili, osservavo tutto quanto avevo intorno. Un grosso cane bruno attraversava la strada verso il giardino dello studente e giù al Tivoli, e aveva un sottile collare d'argento. Un po' più in là, una finestra si apriva al secondo piano. Una ragazza si sporgeva a braccia nude e si metteva a strofinare i vetri dal di fuori. Nulla sfuggiva alla mia attenzione. avevo la mente libera e sveglia. Ogni cosa entrava in me con una chiarezza trasparente, come se intorno si fosse accesa improvvisamente una gran luce. Le due ragazze davanti a me avevano entrambe un'ala d'uccello azzurro sul cappello e un nastrino di seta scozzese intorno al collo. Sorelle, dunque, pensai. Esse mi scansarono, proseguirono e si fermarono chiacchierando davanti al negozio di musica Chisler. Anch'io mi ero fermato. Dopo un po' ritornarono sui loro passi, mi passarono davanti, rifecero la strada già percorsa, piegarono l'angolo della via dell'università e presero dritto verso la piazza Sankt Olaf. Tutto quel tempo fui loro alle calcagna. Esse si volsero ancora una volta e mi lanciarono uno sguardo tra curioso e impaurito, ma non vidi alcun dispetto sul loro viso, né ciglia aggrottate. Quella sopportazione mi empì di vergogna e mi fece abbassare gli occhi. Non volevo seccarle più. Volevo seguirle ancora soltanto con lo sguardo, per pura gratitudine, e non perderle di vista finché fossero entrate in casa e scomparse. Davanti al numero 2, una grande casa di 4 piani, si volsero ancora ed entrarono. Mi appoggiai a un fanale accanto alla fontana zampillante e ascoltai il rumore dei loro passi su per la scala che si spense poi al secondo piano. Allora mi stacco dal fanale, avanzo di qualche passo e guardo in alto. Ed ecco un fatto curioso. Lassù le tendine si muovono, una finestra si apre, una testa si sporge e due occhi strani mi guardano. «I laioli!» dico a mezza voce e mi sento le vampe al viso. Perché non invoca aiuto? Perché non urta uno dei vasi da fiori di modo che mi cada sulla testa? Perché non manda giù nessuno a cacciarmi via? Tutti e due ci guardiamo negli occhi, senza muoverci. Così passa un minuto. Pensieri vanno e vengono tra la finestra e la strada senza che alcuno pronunci una parola. Ella si volta e una scossa mi attraversa come un guizzo, come una leggera percossa. Vedo due spalle che si voltano, una schiena che scompare. Quel distacco leggero dalla finestra, il movimento intenzionale delle spalle, era come un cenno verso di me. Il mio sangue sentì quel tenero saluto e una gioia singolare mi invase. Mi voltai e scesi per la via. Non osavo guardarmi indietro e non sapevo se lei si fosse riaffacciata. Quanto più ci pensavo, tanto più diventavo nervoso, irrequieto. Probabilmente era ancora alla finestra e seguiva tutti i miei movimenti. Insopportabile sentirsi osservati così alle spalle. Mi feci forza alla meglio e continuai per la mia strada. Muovevo le gambe a scatti. Il mio passo era incerto, appunto perché voleva essere franco, e per darmi un contegno tranquillo e indifferente facevo ruotare le braccia come un idiota, sputavo per terra o tenevo il naso in aria, tutto inutile, e sentivo sempre nella schiena quegli occhi che mi inseguivano ed ero tutto percorso da brividi gelati. E infine trovai scampo in una traversa da cui raggiunsi la Pile Strede per ritirare la matita. La recuperai senza difficoltà. L'uomo mi recò personalmente il panciotto e mi invitò a frugarvi. Vi trovai anche un paio di pollice di pegno che mi misi in tasca e ringraziai quel brav'uomo della sua premura. Mi riusciva sempre più simpatico e a quel punto pensai che era bene fargli buona impressione. Mi ero già avviato per uscire allorché mi rivolsi e mi appoggiai al banco come se avessi dimenticato qualche cosa. Mi pareva di dovergli una spiegazione, sicché borbottai qualche parola per richiamare la sua attenzione e alzai la mano brandendo la piccola consumata matita. «Non mi sarebbe mai passato per la mente», dissi, «di fare tanta strada per una miserabile matita, ma quella era una matita particolare, una matita speciale». Per quanto quel mozzicone potesse parere insignificante, era merito suo se ora avevo un posto nel mondo, se ero diventato quello che ero. Non aggiunsi altro. L'uomo intanto era venuto fino al banco. «Che cosa mi tocca sentire?» esclamò guardandomi con curiosità. «Con quella matita», continuai a sangue freddo, «avevo scritto il mio trattato sulla conoscenza filosofica in 3 volumi. Di questa opera non aveva mai sentito parlare? Oh, certo, gli pareva di averne udito almeno il nome, il titolo. Già, continuai, quella opera era mia. Perciò non doveva stupirsi se tenevo tanto a riavere quel misero moncone di matita. Per me aveva un valore immenso. Era quasi una cosa viva, quasi una piccola creatura umana. D'altro canto, gli ero molto grato della benevolenza e non me ne sarei mai dimenticato, proprio così. Non avrei mai dimenticato, parola d'onore. Se lo meritava. Arrivederci. Andai verso la porta, tronfio e solenne, come se fossi stato in grado di procurare ad altri chissà quale posizione. Il prestatore beneducato si inchinò 2 volte e sulla soglia io mi volsi ancora e ripetei «Arrivederci!». Per le scale incontrai una donna con una sacca da viaggio. Ella si trasse da parte timidamente per farmi largo, poiché scendevo con l'aria orgogliosa d'un grande di Spagna. Istintivamente mi misi la mano in tasca per darle qualche cosa. Non trovando nulla, mi sentii impacciato e tirai dritto, piuttosto mogio. Poco dopo la sentii bussare alla porta dell'ufficio prestiti. C'era davanti a quella porta una grata di ferro e io ne riconobbi subito il suono tintinnante. Il sole era alto nel cielo. Dovevano essere circa le 12. La città era animata. Era quasi l'ora del passeggio. La via Carl Johan era piena di gente che si salutava e rideva. Io strinsi le braccia contro i fianchi, cercai di farmi piccino e sgattaiolai inosservato davanti ad alcuni conoscenti fermi all'angolo dell'università a godersi lo spettacolo della passeggiata. Immerso nei miei pensieri, risalii il colle del castello. Com'erano leggeri e sereni tutti quegli uomini che incontravo, come dondolavano la testa spensieratamente e attraversavano danzando la vita come fosse una sala da ballo. Non un occhio affannato, non una spalla curva sotto un peso, forse neanche un pensiero angoscioso, neanche una pena segreta nel cuore di tutta quella gente allegra. E io passavo accanto a loro, giovane, appena adulto, e avevo già dimenticato il volto della felicità. Mi aggrappavo a questi pensieri e riflettevo sull'ingiustizia di cui ero vittima. Perché quegli ultimi mesi mi erano stati tanto avversi? Non mi riconoscevo più. Prima ero così sereno e ora mi assediavano da ogni parte le difficoltà più singolari. Non potevo mettermi a sedere su una panchina, non potevo fare un passo senza essere aggredito da piccole e futili vicende, da miserevoli inezie che si insinuavano nel mio pensiero e disperdevano ai 4 venti le mie energie. Un cane che passava di corsa, una rosa gialla all'occhiello di un signore, facevano vibrare i miei pensieri e mi tenevano occupato per molto tempo. E che cosa soffrivo? Il buon Dio aveva forse puntato il dito contro di me? Perché proprio contro di me? Perché non contro un uomo nell'America del Sud? Perché non contro di lui? A ripensarci, capivo sempre meno perché proprio io dovessi essere scelto a far da cavia per la grazia capricciosa di Dio. Certo, era un modo di procedere piuttosto strano. Scavalcare tutto un mondo per acciuffare me. Oltre a me c'era al mondo anche l'antiquario di libri Pasca e il segretario della navigazione Hennechen. Camminando pensavo e ripensavo a questa faccenda e non ne venivo a capo. Trovavo le più grandi obiezioni all'arbitrio del Signore di far scontare proprio a me i peccati di tutti gli altri. Già da un pezzo avevo trovato una panchina libera e mi ero seduto. E ancora studiavo quel problema che mi impediva di pensare ad altro. Fin da quel giorno di maggio in cui erano cominciate le mie traversie, avevo osservato che la mia fiacchezza andava aumentando, lenta ma costante, quasi fosse ormai troppo debole per dirigermi dove volevo. Uno sciame di piccoli insetti feroci era entrato nel mio cuore e l'aveva svuotato. E se Dio avesse deciso di annientare proprio me? Mi alzai e mi misi a correre su e giù davanti alla panchina. Ero afflitto in tutto il corpo da dolori indicibili. Persino le braccia mi facevano male. Riuscivo appena a sostenerle. Mi sentivo anche appesantito dal mio ultimo pasto, troppo abbondante. Ero troppo sazio e sconvolto. Senza sollevare lo sguardo passeggiavo avanti e indietro. Le persone che andavano e venivano scivolavano via come ombre nella nebbia. A un certo punto due uomini sedettero sulla mia panchina, accesero i sigari e si misero a discorrere ad alta voce. Mi infuriai e fui lì per investirli, ma preferii allontanarmi fino all'altro capo del parco, dove trovai un'altra panchina e mi misi a sedere. Il pensiero di Dio riprese a tormentarmi. Pensavo che fosse ingiusto da parte sua mettermi i bastoni tra le ruote ogni volta che stavo cercando un posto, tanto più che non chiedevo nulla tranne il pane quotidiano. Ogni volta, dopo un periodo di fame piuttosto lungo, era come se il cervello mi scivolasse fuori dalla testa fino a lasciarla vuota. La sentivo diventare sempre più leggera, tanto da non avere più peso sulle mie spalle, e i miei pensieri vagavano lontano. Mi pareva che i miei occhi si fissassero spalancati su tutti quelli che incontravo. Seduto su quella panchina, riflettevo a tutte queste cose e la mia amarezza contro Dio per le sue angherie andava via via crescendo. Se credeva di accostarsi a me e di rendermi migliore, torturandomi continuamente e seminando sulla mia strada una sciagura dopo l'altra, si ingannava un pochino. Glielo potevo dire io. E alzai gli occhi al cielo, quasi piangendo dallo sdegno, e io glielo dissi silenziosamente, una volta per sempre. Mi risuonavano in mente echi di ciò che avevo imparato a scuola da ragazzo. Mi sentivo nelle orecchie il linguaggio solenne della Bibbia e parlavo sommessamente fra me e me, reclinando ironicamente la testa su una spalla. Perché mi preoccupavo di ciò che dovevo mangiare, di ciò che dovevo bere, del modo di vestire questo miserabile sacco di vermi che chiamano corpo mortale? Non ci aveva forse già pensato il mio Padre Celeste come per i passeri del cielo, e non mi aveva forse fatto la grazia di indicare con la sua mano me, suo umile servo? Dio aveva messo un dito nella rete dei miei nervi, portando delicatamente un po' di disordine fra tutti quei fili. Poi aveva ritirato il dito e, guarda un po', vi erano rimaste attaccate alcune piccole fibre, pezzettini di nervi, di radici, e quel dito aveva lasciato anche il buco aperto, ed era il dito di Dio, e a quel dito erano dovute anche le ferite del mio cervello. Ma dopo avermi toccato col dito, Dio mi lasciò, non mi toccò più e non mi fece più alcun male. Mi lasciò andare in pace col buco aperto. E nulla di male mi verrà da lui che è il Signore per tutta l'eternità. Dal giardino dello studente il vento mi portava qualche nota di musica. Erano dunque già le due passate. levai di tasca l'occorrente per scrivere. Forse avrei potuto lavorare e mi trovai in mano l'abbonamento del barbiere. Lo spiegai, contai. Ancora 6 volte. Sia lodato Iddio, esclamai istintivamente. Dunque potevo farmi radere per qualche settimana ancora e presentarmi decentemente. La coscienza poi di quella piccola proprietà che mi era ancora rimasta mi mise subito di buon umore. Lisciai accuratamente l'abbonamento e me lo rimisi in tasca. Ma non riuscivo a scrivere. Dopo un paio di righe, per quanti sforzi facessi, non mi veniva nessuna idea. I miei pensieri vagavano altrove e non riuscivo a raccogliermi. Tutto mi impressionava e mi distraeva. Mosche e zanzare si posavano sulla carta e mi disturbavano. Soffiavo per cacciarle via, soffiavo sempre più forte, ma invano. Le bestiole si impuntavano, resistevano con forza fino a curvare le zampine sottili. Impossibile smuoverle, trovavano il punto a cui aggrapparsi, puntavano le zampe contro una virgola o una ineguaglianza della carta e vi si sostenevano incrollabili finché reputavano opportuno prendere il largo di loro iniziativa. Per un po' mi divertii a occuparmi di quei mostriciattoli. Accavallai le gambe e stetti a osservarli pacatamente finché il suono di un clarinetto dal giardino dello studente laggiù mi raggiunse e diede una scossa ai miei pensieri. Seccato di non poter comporre il mio articolo, mi misi in tasca carta e matita e mi appoggiai alla spalliera della panchina. In quel momento la mia mente era così lucida che potevo fare i ragionamenti più sottili senza stancarmi. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Ervinio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.